Abbiamo fatto dei progressi come sistema, quindi non parlo di Simest, noi speriamo sempre di essere un po' alla punta dell'innovazione, è un po' lo stile nostro di gestione. Però si può fare ancora di più, si può fare ancora di più e l'ottica non è quella di eliminazione sic et simpliciter di un'entità rispetto a un'altra, è quella di specializzare di più le strutture, perché se una struttura è specializzata in un lavoro, è un po' come un'azienda, se più parti di un'azienda hanno una capacità di affrontare delle problematiche, dare un valore aggiunto, poi ci vorrà anche una capacità di coordinamento, però questa capacità di coordinamento sta venendo fuori, un po' all'italiana, ma sta venendo fuori. Quindi secondo me il lavoro dei prossimi anni è quello di lavorare di più sulla specializzazione e l'efficacia, proprio l'efficacia, non solo l'efficienza, delle singole strutture. In questo può darsi che qualcuno che sconfina, su un'altra attività senza averne le competenze possa essere ricondotta nel suo alveo, però è questa la logica. Quando un'azienda che sul nostro mercato domestico, quindi intendo per domestico Italia ed Europa, Unione Europea, ha una dimensione già ragguardevole, su certi mercati invece non ha le dimensioni giuste per approcciare certi tipi di business. Ecco perché noi puntiamo a facilitare, quindi non solo ad aiutare la singola azienda in un progetto specifico, ma a portarla sui mercati, molto spesso aggregata sui nodi più difficili, sulla distribuzione o sulle gare internazionali, per esempio. Un lavoro che abbiamo avviato con Lance e Loice, per esempio, è quello di aggregare aziende che vanno dalle costruzioni all'ingegneria, ai materiali per l'edilizia, all'illuminazione sulle città. Il progetto che sta prendendo corpo di Città Italia, io penso e spero che vedrà la luce a brevissimo, perché c'è anche una domanda di questo nostro saper vivere, questa nostra qualità italiana. E quindi su questo possiamo lavorare e giocare molto bene.